La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto da Franco D'Assisi, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, il nostro appuntamento che in questa estate 2011 dà spazio alle grandi interviste, o soprattutto alle interviste con i grandi del cinema italiano e internazionale, prima di celebrare la tradizionale liturgia dell'ora di cinema di Radio 24 con tutte le novità del fine settimana sul grande schermo. Ospite di oggi è davvero una persona, un personaggio che mi sta molto a cuore, mi è molto caro, perché i suoi primi film sono stati fra quelli che hanno aperto anche il mio percorso nell'ambito del cinema, ed è un personaggio che considero con grande sincerità un maestro del cinema italiano, forse un maestro poco seguito, ma sicuramente un maestro. Stiamo parlando di Maurizio Nichetti, allora entriamo subito nel clima con questa clip. Ma lei chi è? No, scusi, ci conosciamo noi? Forse sì, la conosco e... No, mi aiuti a ricordare dove ci siamo conosciuti. E io che... Senta, avevamo preso un appuntamento? Trombetta! Ma cosa ti è successo? Io lo sentivo, sai, lo sentivo che era successo qualche cosa di grave. Io dovevo telefonare, dovevo cercare in ospedale. Oh, no, guarda, non ero in ospedale. Come, scusa, ma sei tutto fratturato? No, non ho neanche un graffio. Vabbè, ma non ti sembra di aver esagerato con le bende? È che non so da che parte cominciare per spiegarti. Cominciamo bevendo qualcosa di forte. Ecco, il personaggio di Maurizio Nichetti, di Volere Volare, non sapeva da che parte cominciare. Noi abbiamo voluto cominciare proprio con questa clip, perché dentro c'è un po' tutto il mondo magico del cinema di Maurizio Nichetti, che saluto. Ciao Maurizio. Ciao, ciao. E allora... Ha sempre impressione vedere i film attraverso la radio. No, però questo è il grande potere della radio, il potere evocativo, che è rimasto assolutamente appannaggio di questo mezzo vecchio più di 100 anni, come il cinema peraltro, quindi ci sarà anche probabilmente un'alchimia fra i due mezzi. Senti, io ti ho definito maestro e ti spiego anche perché, non per piaggeria, ma perché tu hai aperto una strada, e questo secondo me lo fanno i maestri, cioè dicono si può fare anche così. Questo film, Volere Volare, insieme a tanti altri, ha mostrato un aspetto del cinema italiano magico, surreale, molto poetico, molto dolce anche, che ha creato un modello. Come ci sei arrivato? Quindi con questo, come dire, mettiamo in gioco anche i tuoi pregressi, mettiamo in gioco il teatro, mettiamo in gioco la laurea forse in architettura. È curioso che Maurizio Nichetti arrivi dopo Michael Cimino, che laureato in arti visive, anche lui approdò al cinema. È successo così anche a te. Insomma, come sei arrivato a questa formula di magia un po' sospesa? Ma guarda, io credo, al di là dell'architettura, che è stata il mio corso di studi, io sono architetto, però più che l'architetto qui è il mimo e l'autore di cartoni animati. Io ho lavorato per tanti anni da Bruno Bozzetto, allo studio di Bruno Bozzetto, ai tempi di Allegro non troppo e dei film del signor Rossi, e poi ho fatto la scuola di mimo al Piccolo Teatro, per cui Volere Volare è proprio figlio di queste due esperienze: da una parte il mimo, la gestualità, la gag visiva, e dall'altro il cartone animato, che è sempre stato un amore fin dalla prima ora. Ecco, dentro i tuoi amori cinematografici, poi parleremo diffusamente, insomma, di quanto ha contato l'animazione e questo tipo di uso dell'animazione nel tuo cinema. Dicevo però, un altro sfondo, forse un altro background che ti sei portato dentro nella tua crescita è quello della città in cui hai operato, in cui sei nato anche ovviamente, per la gran parte della tua carriera, ovvero Milano. Nel tuo cinema c'è tanta Milano. Guarda, io preparando questa trasmissione ho attinto a tante clip di tuoi film, e sullo sfondo c'era sempre questa città trattata con grande amore, ma anche con lo sguardo tipicamente milanese, molto critico, no? Di chi vede anche i difetti, come per esempio una ossessiva, diciamo così, voglia di performance che era presente già in alcuni tuoi film degli anni Ottanta, come per esempio Ratataplan. 1,39, escudo portoghese 17,10. Pronto? Pronto? Pronto? Un bicchiere d'acqua subito all'ultimo piano. Un bicchiere d'acqua. Colombo! Un bicchiere d'acqua. Ecco, c'è molto Jacques Tati in questa richiesta di un bicchiere d'acqua che diventa una cosa più grande dell'uomo stesso. Maurizio, Milano, dicevamo, lo sfondo dei tuoi film. Cosa ti ha dato, al di là della comodità e del fatto di essere milanese, girare nella tua città? Ma guarda, io ho sempre scritto delle storie metropolitane, per cui cercare di realizzarle in una grande città era naturale. Poi il fatto di averle fatte a Milano, che è la città dove io abito, ma non solo, direi nel quartiere dove abito, proprio in quelle poche vie che sono attorno a casa mia, questo è poi un fatto veramente di pigrizia, di location, perché alla fine io amo Milano nelle sue quartieri vecchi, nuovi, grattacieli, le case a ringhiera, e ho la fortuna di abitare attorno alla stazione centrale, che è una zona di Milano che ha tutte queste anime. Ho girato la Milano degli anni 40, degli anni 50, del futuro, insomma l'ho sempre girata da queste parti. Allora niente, mi fa piacere quando rivedo i film, perché ci vedo dentro poi dei paesaggi che percorro ancora oggi in bicicletta. Un bicchiere d'acqua! Un verre d'eau! Un glas vuota! Un glas Wasser! Ho telefonato! Endlich! Hat angerufen! Ah, il telefono fuori, il telefono. Il telefono è finalmente! Bravo, grazie! E questa era la degna conclusione della clip di prima, e vi avevano lasciato in sospeso con questo bicchiere d'acqua. Maurizio, parlavamo di animazione prima, a parte il fatto che per i tempi con cui le cose sono accadute, noi abbiamo visto poi concretizzarsi, mi viene in mente ovviamente il famoso, e penso che ti sarà stato detto tante volte, caso di chi ha incastrato Roger Rabbit. Abbiamo visto tante volte concretizzarsi alcune idee di Maurizio Nichetti da un'altra parte, e mi viene in mente anche un grande altro maestro dell'animazione come Guido Manuli, perché quando è uscito Avatar di Cameron, con tutto quello che è successo e che ha cambiato nella storia del cinema, c'era stata proprio una querela legata al fatto che alcune scene di Avatar erano identiche, davvero identiche, ad alcuni scenari immaginati in Aida degli Alberi da Manuli. Tu hai lavorato con Manuli, hai lavorato con Bozzetto, questo mi porta proprio a una domanda: l'animazione italiana è stata un'animazione di maestri, di iniziatori, di detentori di idee originali. Poi però a un certo punto sembra che tutto si sia spento, tranne che in televisione. In televisione continuiamo a fare cartoon, ma al cinema chissà perché a un certo punto tutto questo si è smarrito. È cambiato il pubblico, è cambiata la nostra capacità di lavorare in questo settore, è cambiata la produzione. Cos'è successo? Direi che sono scomparsi i soldi e i budget sono aumentati, per cui le due cose messe insieme hanno cancellato completamente la produzione di animazione per il cinema italiana. Cioè le tecnologie sono troppo costose oggi per fare un lungometraggio competitivo per la sala cinematografica, e nello stesso tempo il nostro potenziale produttivo si è pressoché azzerato, per cui l'unica strada che è rimasta per gli animatori è la lunga serialità televisiva, con tutti i problemi che ne derivano, cioè di inevitabile serializzazione delle idee, e i prototipi creativi come si facevano una volta è più difficile farli, insomma. Secondo me è alto, biondo e bello. Perché? Perché soltanto uno alto, biondo e bello può dormire 20 anni senza che nessuno se ne accorga. Certo che sei davvero alto, biondo e bello. Saprei io dove metterlo a dormire. Sì, brava, così si addormenta per altri 20 anni. Che spirito. Carlina, dici qualcosa su tuo cugino. Ho detto che non me lo ricordo. Ehi, guarda quello laggiù. Dove? Là, là, sta attraversando la strada. Quello con gilet blu? Sì, sì, vieni di qua, è lui, è lui. Ma a me non piace. A parte che entra nel metrò, non è lui. E questo era il discorso fra tre amiche sospese su un balcone su Piazza Oberdan a Milano, per chi conosce Milano, in fondo a Corso Buenos Aires, questo balcone fiorito, che c'è ancora, quel caseggiato resiste, anche se sotto il panorama non è più lo stesso. Questo ci introduce appunto una clip, tra l'altro tratta, lo dobbiamo dire, dal secondo film di Maurizio Nichetti, Ho fatto Splash, ci introduce a un altro tema, Maurizio, quello delle donne, le donne del tuo cinema. Angela Finocchiaro su tutte, ma anche Luisa Morandini, anche Lella Costa, anche Caterina Silos Labini. Hai raccontato spesso di donne e le donne nel tuo cinema, e diciamo, anzi secondo me, le donne sono state proprio le portatrici della visione della vita nei tuoi film, e ti riconosci, diciamo, in questa definizione? diciamo che io ho sempre avuto abbastanza uno sguardo di grande attenzione per l'universo femminile, poi se ci metti che nei miei film ero quasi sempre io il protagonista, è logico che tutta la mia attenzione di regista anche andava a ricadere sul personaggio che divideva con me la responsabilità del film. Anche Yaya Forte in L'una e l'altra, per esempio, è stata una presenza fondamentale. Io devo dire adesso una riflessione, sentendo le clip dei miei film, devo dire che sono veramente demenziali, perché senza l'immagine i miei film credo che siano assolutamente criptici, cioè penso ad altri autori, non so, dei film di Moretti si ricordano delle frasi famose, si ricordano delle battute epocali. I miei sembrano tutti dialoghi apparentemente senza senso, perché il senso lo acquistano con l'immagine. E questo è sempre stato un po' una mia sfida, quella di scrivere delle storie attraverso quello che accadeva sullo schermo piuttosto che attraverso quello che dicevano poi nei dialoghi i protagonisti. E allora Maurizio Nichetti rimane con noi, perché fra poco affrontiamo la seconda metà di questa nostra intervista sulla storia del suo cinema. Prima però sentiamo come vanno le cose sulle strade. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, le interviste della Rosa Purpurea con Maurizio Nichetti in collegamento con noi. Abbiamo parlato e abbiamo ascoltato le clip di alcuni dei film degli esordi di Maurizio, Ratataplan, Ho fatto Splash. Parleremo fra poco anche dell'episodio di Ladri di Saponette, un altro dei grandi episodi, insomma, della carriera cinematografica di Nichetti. Però prima voglio affrontare un film che Maurizio aveva citato poco prima di lasciarci per la pausa, ovvero L'una e l'altra, che è sostanzialmente il penultimo film per il cinema che Maurizio Nichetti ha fatto. L'ultimo è stato Honolulu Baby nel 2001, L'una e l'altra risale al 96. Ascoltiamo la clip. Io cerco persona giusta per fare mio numero, mio grande numero. Sicuramente qui troverà ciò che cerca. Abbiamo le signorine migliori della città, eh? Ma niente, troppo davanti, niente. Di questa che mi dice? Un gioiellino. Sì, gioiellino, ma piccolo gioiellino. Questo è un film da riscoprire assolutamente, e tra l'altro nella riscoperta dei film di Nichetti ovviamente è fondamentale il DVD. Anche su questo fra un poco interrogheremo Maurizio, che ha curato in prima persona anche i contenuti speciali dei suoi prodotti in un video. Però perché L'una e l'altra? Un film che è stato candidato al Golden Globe come miglior film straniero, è entrato nella cinquina nel 1997, e che in Italia si fa fatica a trovare in un video. Allora Maurizio, come spieghiamo questo mistero? Tu hai avuto un successo all'estero, in Italia ne hai avuto tanto di successo, soprattutto in quegli anni, ma all'estero è stato forse quintuplicato. Come la spieghi questa cosa? Esterofilia degli altri? Tanto quello che dicevo prima, che sono film che si spiegano con le immagini, si apprezzano per le immagini, e le immagini sono un linguaggio internazionale, per cui sono film che sono sempre piaciuti molto all'estero. L'una e l'altra aveva avuto abbastanza successo, aveva vinto due Nastri d'Argento anche in Italia e tutto. Il problema è che poi il grande successo di pubblico l'ho avuto solo con Ratataplan, Ho fatto Splash, Volere volare, cioè non tutti i film possono diventare dei campioni di incasso, ecco, specialmente se uno poi fa sempre dei film diversi, dei film che sono dei prototipi e non sono il rifacimento del film precedente. Poi i DVD sono stati editati, direi che era Ratataplan, Ho fatto Splash, Stefano Quante Storie, Volere volare si trovano abbastanza, sono stati editati dalla Cristaldi Film e da Cecchi Gori, e diciamo su richiesta te li possono procurare. L'una e l'altra era la Eagle come distribuzione, credo che siano andati esauriti, non so se li hanno ristampati, ecco questo è il problema, che non appartengono a dei gruppi, a delle famiglie, a dei clan che in qualche maniera li difendono, li tutelano, sono un po' dei film indipendenti, per cui ognuno di loro vive una sua storia strana. Il mio cruccio più grosso, per esempio, è che Ladri di Saponette non è mai stato fatto in DVD, cioè questi diritti li ha Mediaset per tutta l'Italia, e siccome non hanno nelle loro linee editoriali il DVD di Ladri di Saponette, a distanza di 20 anni io non ho ancora Ladri di Saponette in DVD, che è scandaloso per me e per il pubblico, che tutto sommato veramente non lo può trovare, ecco. Senta, facciamo prima L'Armée des Ombres di Melville o The Manchurian Candidate di Frankenheimer? Veramente, dottore, adesso c'è Nichetti. Come Nichetti? Nichetti. Nichetti. Senti, scusa, io dovrei fare dopo le presentazioni di Melville e di Frankenheimer con questi bambini di Nichetti con la bicicletta lì. Sì, ma non ti preoccupare, poi faccio dei primi piani, stringo. Su Melville è tutta una vita che studio, su Frankenheimer ho preparatissimo. Su Nichetti cosa vuole che facciamo? Improvviseremo, no? Scusa Nichetti, qua sono sempre gli ultimi a essere informati. Com'è l'esatto titolo italiano del film? Ladri di saponette. Ladri, sì, di grazie, saponette. Grazie. Beh Maurizio, strepitosa questa gag con Claudio Cifava, Claudio uno dei decani Cifava, della guarda, critica. Ecco, questa qui sentendola me la sono gustata invece, perché lui ha improvvisato, cioè abbiamo parlato del senso della scena e poi le cose le ha improvvisate lui. E devo dire che senza volere, quasi a livello inconscio, ha improvvisato esattamente quello che io posso sottoscrivere sia stato per certi anni e per certi tempi un atteggiamento di certo tipo di critica, cioè studiano a fondo Frankenheimer e Melville e poi quando arriva Nichetti improvvisano. C'è uno sketch che tu hai fatto, tra l'altro forse possiamo prepararlo con Verdone Benigni, che tu hai fatto in televisione, che anche lì diceva molto di questo modo di vivere Nichetti, cioè Nichetti era quello sostanzialmente del film muto. Sentiamo un attimo. Nichetti, che cosa pensa lei della critica oggi? Sì, lei. Basta, grazie. Ecco, basta, grazie. Nichetti aveva solo fatto dei gesti, ma lui era quello appunto che aveva portato nelle sale un cinema che si richiamava proprio alle origini. Diciamo, quella trasmissione lì che hai citato l'avevamo fatta proprio negli anni nell'80, 81. Troisi non aveva fatto ancora Ricomincio da tre, si stava allenando facendo il regista di questa trasmissione televisiva e tutti noi che ci conoscevamo avevamo partecipato di buon grado alla scena. È ovvio che io, venendo da due film muti, fossi muto anche in quello sketch. Però il problema forse più grave, ecco, che quando un autore, un regista fa delle cose fuori dagli schemi, poi sui giornali non sanno cosa metterti come genere. Certe volte resto tagliato fuori da degli elenchi, da degli articoli, solo perché c'è l'imbarazzo di non sapere dove collocare un'operazione, una filmografia che aveva nell'originalità il suo divertimento. Senti, manchi dagli grandi schermi, hai fatto tanta TV importante in questi ultimi anni, ma manchi dai grandi schermi, come dicevamo, da 10 anni ormai. C'è la possibilità di rivedere qualcosa di Maurizio Nichetti al cinema? Dipende molto dalla produzione. Dico dipende dalla produzione perché io fino all'anno scorso non ho provato a fare cinema. Ho avuto 8 anni di grande lavoro che mi ha tenuto lontano dal set. Ho lavorato per l'Olimpiade di Torino, ho lavorato per il Festival di Trento dirigendolo per 6 anni, ho fatto parecchie serie televisive, 2 fiction per la televisione. Cioè, ho provato altri linguaggi e altri formati. Da un anno circa sto cercando di lavorare a dei progetti invece per il cinema, ancora per il cinema, e ho scoperto che non ci sono più produttori, non ci sono più sale cinematografiche. Adesso non è che l'ho scoperto adesso, però provando a mandare in giro i soggetti, il primo problema è a chi li mando, per cui siccome i ragazzi mi scrivono sulla rubrica di Chuck spesso, ma a chi posso far leggere il mio soggetto, questo è un problema che abbiamo anche noi, perché se manca una generazione di produttori che rischiano in proprio, noi abbiamo solo produttori che una volta preso il soggetto in mano vanno o nell'anticamera della Rai o nell'anticamera di Mediaset, per cui sono 2 anticamere che conosco anch'io e allora potrei andarci anche direttamente senza un mediatore, però il problema è che se quei 2 ti dicono di no, tu il cinema non lo fai più. Ma ci puoi dire qualcosa su questo lavoro da un anno a questa parte che stai facendo per rientrare nel cinema? Io ho attivato una serie di collaborazioni e di progetti a 360 gradi che vanno dal seguito di Volere Volare, che è un progetto ormai che ho scritto qualche anno fa e che, come dire, il giorno che qualcuno me lo facesse fare faccio i salti di gioia e sono convinto che verrebbe un bellissimo film oggi più che mai, perché oggi con la tecnica 3D così sarebbe una storia molto, molto interessante, però questo appartiene un po', diciamo, al vecchio genere di cinema che è attualizzato con le tecnologie, potrebbe essere ancora di attualità. E poi sto lavorando anche a delle storie invece che prescindono dalla mia presenza come attore, perché penso che un comico, specialmente appunto quando ha interpretato il personaggio un po' sognante che si è identificato fatto con un viso, con una faccia, con una fisionomia, insomma poi dopo devi invecchiare con lui, per cui dovresti scrivere delle storie che oggi sono più adatte alla mia età e al mio personaggio. Tutto sommato non so se mi interessa far invecchiare il personaggio, è già abbastanza invecchiare noi nella vita, ecco, il personaggio può rimanere anche giovane come Greta Garbo, no? Che poi non ha più lavorato. Maurizio, grazie mille, allora ti aspettiamo al cinema, è davvero un augurio che facciamo a noi stessi come spettatori prima ancora che a te come regista. Bene, ti ringrazio e io spero anch'io, ma credo che insomma i segnali sono buoni, per cui prima o poi arrivo. Maurizio Nichetti alle interviste della Rosa Purpurea. Linea adesso alla regia, fra poco torniamo con tutta l'attualità della settimana cinematografica. La Rosa Purpurea. Di nuovo ancora insieme qui alla Rosa Purpurea, sempre con Franco D'Assisti per l'attualità cinematografica, i film del weekend in sala e tutto quello che c'è da vedere in un video. Come sempre noi affidiamo ai nostri titoli di testa i contenuti particolari della prossima ora di cinema. Tornano i fratelli Farrelly, i padrini di Tutti pazzi per Mary. Nelle sale, libera uscita, commedia irriverente e divertente con Owen Wilson e Jason Sudeikis, due mariti ossessionati dal sesso in ferie provvisorie dal matrimonio. Chi tira le file dei nostri destini? È l'interrogativo al centro de I Guardiani del Destino, fantafilm con Matt Damon nei panni di un giovane politico che si innamora perdutamente di una ragazza. Ma il loro amore verrà ostacolato da un oscuro gruppo di persone che cercano di pilotare il suo futuro. Un'incredibile storia realmente accaduta nel XIX secolo che ha per protagonista una donna ottentotta, studiata ed esibita come fenomeno da baraccone. È Venere Nera, il ritorno di Abdellatif Kechiche, leone d'argento a Venezia per Couscous. Storia di morte e vendetta per The Hunter, ambientato nell'Iran contemporaneo. Storia di Ali, un operaio appena uscito dal carcere che cerca una riabilitazione sociale. La misteriosa morte della moglie e della figlia durante una manifestazione di piazza scateneranno la sua violenta reazione. Ehi, chi ha voglia di un bacone con scaglie di cioccolato? Si può sapere che cavolo avete? Siete completamente ossessionati dal sesso! Stamattina hai lasciato il PC acceso su supertette.com! Vedo le previsioni del tempo su quel sito. E questa è una delle tante, tantissime battute, vi assicuro, una delle più educate di questo film, Libera Uscita, dei fratelli Farrelly, Hall Pass, il titolo originale, fratelli Farrelly che hanno firmato alcuni film largamente volgari ma molto molto divertenti, come Tutti pazzi per Mary o Scemo e più scemo. Ebbene, Owen Wilson, Jason Sudeikis sono i due protagonisti nei panni di Rick e Fred. Rick, appunto Owen Wilson, ha tre figli, una moglie che ama, ma dopo tanti anni sapete com'è, i meccanismi dell'erotismo di coppia si sono un po' appannati, uno arriva a letto e l'altro sta già dormendo, nel momento più bello arriva il bambino che reclama attenzione, insomma tutte cose che più o meno tutti noi abbiamo già vissuto. Fred invece, Jason Sudeikis, è sposato ma di figli non ne ha, questo dovrebbe dare via libera a tutte le sue più sfrenate fantasie, ma ci sono di mezzo le stesse disattenzioni da routine, la stessa capacità di spogliare, di fare la radiografia a una donna con il solo sguardo. Insomma, Rick e Fred sono due farfalloni, anche se poi dicono e fanno davvero poco. Le loro serate passano a giocare a poker con tanti amici, di cui vi lasciamo immaginare i discorsi, molta fantasia, poco realismo, finché a un certo punto l'ennesima figuraccia fa scattare la decisione delle loro signore. Ha ragione, tutti di sopra! Non le reggo queste feste, guarda quanta roba ho, sono odiose. Venite, vi piacerà da matti! Io trovo che una safe room sia esagerata. Rick e Fred. Ma dove sono gli altri? È una mia impressione o Mandy Boy che si è appena rifatta le cocce? Ecco fatto. Sai che mi intriga delle divorziate? Che adorano il sesso. Davvero? Mi piace pensarlo, sì, che ti piacerebbe che fosse vero. E allora, questo è un po' quello che succede, questo è il problema di avere delle videocamere in questa casa di campagna sfarzosa, videocamere di controllo in tutte le stanze, ma con l'audio purtroppo che era rimasto aperto. E quindi si sentono i discorsi dei nostri Rick e Fred che erano rimasti in un'altra stanza e, come dire, onoravano delle loro attenzioni la signora di casa. E a questo punto scatta la vendetta, si fa per dire, delle mogli. Ti concedo una libera uscita. Una che? Una che? La che? Una vacanza dal matrimonio. Sì, come no? Dico sul serio. Vaffanculo. Che roba è? Oh, sono dei brownie. Al gusto erba. Non ti senti un po' strano come me? Io no, perché? Io sono fuori di brutto. Allora, come si dice? Grande, grosso e coglione. Oh! Se andassimo in un centro massaggi? Glielo spiego io, glielo spiego a voce. Questo vuole massaggio con pugnetta ma senza modulo. No, ha capito male, no, mi creda, si sbaglia di grosso. Ho chiesto un massaggio sportivo, ho detto spugnetta. Ed eccoli quelli che sono Rick e Fred di fronte a una settimana in libertà dove, come avete capito, ne capitano di tutti i colori. I due quarantenni si trovano segretamente più innamorati e dipendenti proprio dalle loro signore che mancano proprio quando non ci sono, e tutto questo molto molto oltre il limite che essi stessi cercherebbero e oserebbero ammettere in loro presenza. Fratelli Farrelly che tornano con una commedia sembra più equilibrata cinematograficamente, anche se il loro modo di girare, la loro regia è molto anni 90, è molto ancora figlia di una sorta di sitcom, se vogliamo, in termini anche stilistici. E certo che vederlo dopo Una notte da leoni, che è iperadrenalinico, che è una comicità ugualmente che spinge sul volgare, sull'allusione sessuale, ma figlia assolutamente dei sincopati tempi nostri, ebbene, fa un certo effetto. Ma è un film comunque politicamente scorretto, ma cinematograficamente riuscito, molto divertente, molto bene Owen Wilson, un po' fuori verosimiglianza se vogliamo Jason Sudeikis, che però ha il suo fascino cinematografico. Rilevo uno straordinario cameo di Richard Jenkins, uno dei più grandi attori americani, protagonista, lo ricorderete, qualche stagione fa di un bellissimo film che era l'ospite inatteso, ebbene qui nei panni di un discotecaro assolutamente âgé che porta sulla retta via, diciamo, la retta via del film, immaginate quale sia, i nostri Rick e Fred. Ma andiamo ad ascoltarlo allora Owen Wilson che racconta un po' di questo problema tutto maschile, insomma, se una bella donna o anche una donna semplicemente avvenente, attraente, si siede a un bancone del bar, non ha mica difficoltà a, come dire, incontrare qualcuno per la serata. Per gli uomini è un po' più difficile, Owen Wilson. Anche se voi donne pensate che accada esattamente il contrario, quando un uomo va in un bar, ha più difficoltà a conoscere una donna di quanto non succeda a una donna che va in un bar. Se una donna vuole, ottiene più di noi. E questa era appunto la minima moralia del film targata Owen Wilson. Libera uscita quindi nei cinema italiani, vedremo se riuscirà a scalzare dalle prime posizioni della classifica X-Men all'inizio, che è primo in classifica ma è cominciato in maniera poco poco esaltante, poco più di 1.300.000 euro nel primo weekend, che ha relegato al secondo posto proprio Una notte da leoni 2, che però veleggia molto bene in termini di incasso globale, ma che insomma forse ha cominciato a risentire un po' dell'estate e un po' anche del fatto che in Italia i supereroi, se non sono l'Uomo Ragno e dintorni, fanno sempre un po' più fatica che in America. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo insieme qui alla Rosa Purpurea per parlare di un altro grande film americano che arriva sui nostri schermi, I Guardiani del Destino. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme, Rosa Purpurea, e andiamo avanti con le proposte cinematografiche del weekend. C'è un film che sta accogliendo e raccogliendo soprattutto grandi consensi. Un film che esplora un po' il destino dell'uomo, detta così sembra magniloquente, in realtà è proprio questo. Immaginiamo, il cinema lo ha fatto tante volte, che dietro ogni scelta, dietro ogni momento della nostra vita ci sia un grande burattinaio che muove i fili, no? Che ci fa trovare la persona nell'angolo giusto. Ricordate, per esempio, mi viene in mente Sliding Doors, lì c'era tutta un'altra questione, no? Cosa succede se faccio o non faccio una cosa nella mia vita, però tutto sommato il destino c'entrava. C'era anche questo bellissimo film dell'inizio della stagione, se non ricordo male, proprio dell'autunno scorso, The Box, dove premere o non premere il bottone su una misteriosa scatola che arrivava in casa significava entrare o non entrare in una dimensione diversa. Insomma, ecco, I Guardiani del Destino è il film che arriva nelle sale cinematografiche italiane in questo fine settimana, è candidato a occupare una delle posizioni più alte della classifica nel prossimo lunedì. Il cast è importante, Matt Damon con Emily Blunt sono i due attori protagonisti, con Terence Stamp, che è sempre un piacere vedere in un ruolo meno importante, ma insomma ugualmente rilevante. Il regista è George Nolfi. Allora, noi, prima di entrare in collegamento con Boris Sollazzo, al quale chiederemo un po' di raccontarci questo film, sentiamo una prima clip. Il mondo è pieno di donne. Credevo fosse chiaro che quella è off limits. È passato tanto, l'avrò scordato. Non è cambiato niente. Ci avete fatto incontrare 3 volte. Non noi, è successo per caso. Perché ci volete separare? Perché lo dice il piano. Forse l'avete interpretato male. C'è poco da interpretare se si parla di lei e di Liz. Allora il piano è sbagliato. Sa chi l'ha scritto? Non mi importa. Dovrebbe. E dovrebbe essere più rispettoso. Se non dobbiamo stare insieme, perché mi sento così? Boris Sollazzo, benvenuto alla Rosa Purpurea. Chi tesse le fila delle nostre vite, dei nostri destini? Chi tesse? Il presidente. Adesso non pensare subito che faccio battute politiche di nessun tipo, ma è proprio così che lo chiamano all'interno dei Guardiani del Destino. Film, ricordiamolo, non tanto diretto da Nolfi quanto pensato da Philip Dick, di cui è il racconto da cui è tratto il film. Importante perché tutto quello che c'è di buono nel film arriva proprio da là, da quel racconto, devo dire abbastanza geniale, in cui in maniera molto mirabile sulle pagine viene unito paranoia e amore. Spesso le due cose in una persona gelosa si uniscono, qui sono viste in un'altra, totalmente in un'altra maniera. Matt Damon si può dire che è una sorta di Jason Bourne, perché si trova a fare il politico, è un politico in rampa di lancio, potrebbe andare al Senato, ha una piccola defiance, questo però non gli impedisce di diventare uno dei candidati alla presidenza. Nel frattempo, nella sua vita privata arriva questa donna, Emily Blunt, di cui si innamora perdutamente, subito un colpo di fulmine. Pensa che sia tutto un caso, forse non è così, perché c'è un libro e ci sono degli angeli con un cappello che permette loro di passare attraverso tutte le porte, e c'è un presidente che sovraintende a questa grandiosa vita a cui lui è destinato, ma forse lui non la vuole. Ed è questa, insomma, la storia dei Guardiani del Destino. I Guardiani del Destino sono quelli che impediscono a David Norris di fare quello che vuole, di arrivare a quest'amore tanto agognato, è anche quello contro cui combatte, sembra davvero un Jason Bourne dell'amore in questo senso. Il film è molto particolare, un oggetto cinematografico strano, perché non siamo forse più abituati a vedere film che abbiano, come dire, che chiedano così tanto allo spettatore, che chiedano così tanta sospensione della credulità allo spettatore, che siano anche delle favole, perché è un film d'amore tout court, è anche però un film, tra virgolette, di spionaggio tout court. Questo fa sì che si entra e si esce dal film, che non sempre è all'altezza di quello che sta raccontando, però alla fine è qualcosa di curioso, di interessante, di particolare, e insomma il mio consiglio è di andarla a vedere, perché credo che ognuno di noi lo interpreterà come meglio crede e lo amerà o lo odierà anche a seconda del momento che sta vivendo. E tra l'altro la presenza di Matt Damon, divo sempre più, come dire, luminoso, no? Dopo anche Eastwood, insomma un attore che sta arrivando a maturità. Dicevi prima appunto di chi tesse le fila, molto bello il titolo originale, che è The Adjustment Bureau, cioè l'ufficio degli aggiustamenti, dove si sistema tutto. Ecco, questo è un po' anche il criterio, anche il sunto di quella che è la logica del film. Immaginate che esista un ufficio alle nostre spalle, sopra di noi, dove tutto ha già una sua storia. A questo punto prendiamoci un attimo una pausa dall'attualità cinematografica per giocare insieme, ma Boris rimane con noi perché fra poco dobbiamo parlare di un altro film. La prima parentesi sul DVD Game di oggi, come sempre 3 tracce di un film che dovrete indovinare, a partire da questa. La nostra torta preferita, alla vaniglia con le fragole. Oh, mamma, non così grande. No, ti prego, è troppo. Ma dobbiamo festeggiare, dai, per una volta. Mamma. Una mamma, una figlia, una torta. Questi primi indizi di questo film. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete già indovinato o pensate di averlo fatto. Di che film si tratta, con il vostro indirizzo, come sempre più tardi, un altro paio di possibilità. Ed eccoci ripiombati nell'attualità cinematografica. Un paio di stagioni fa a Venezia Abdelatif Kechiche vinceva il Leone d'Argento e incantava la platea, per esempio, a mio modo di vedere. È stato un anno molto bello quello di Venezia 2009, se non sbaglio, ma certo quel Couscous, così uscì in Italia con questo titolo, fu un film che meritava forse qualcosa di più di un semplice Leone d'Argento. Ora torna nelle sale italiane, almeno, il suo regista Abdelatif Kechiche con un film che definire strano è poco, ed è una storia, tra l'altro, che prende quota dal fatto di essere proprio vera, e quindi, come dire, portata alla ribalta oggi, è una storia particolarissima. È la storia della Venere Nera. Ascoltiamo la clip. Assisterete ad un fenomeno davvero straordinario. Signore e signori, ecco a voi la Venere Ottentotta. Svelta! Sicuramente è nella forma e nel forte sviluppo delle mascelle che si riscontra una somiglianza tra l'Ottentotta e l'Orangotango. A terra! Stai buona. Dicono che siete una principessa. È vero? Avvicinatevi, signore e signori! Non sentitevi imbarazzati! Stai giocando col fuoco, amico. Oh. Per voi, signore e signori, la Venere Ottentotta! La Venere Nera sembra quasi un soggetto buono per una canzone di Vincio Capossela, così a sentirla, in un certo senso. Boris, un film spiazzante. Beh sì, una storia di una ferocia assoluta, storia verissima tra l'altro, credo che fosse dei primi secoli dell'Ottocento. Questa donna di fatto è deportata dal Sudafrica alla Francia ed esposta come un fenomeno da baraccone per la sua pelle, per la sua corporatura, ma anche per questi genitali pronunciatissimi che la rendono diversa nella diversità. Cioè, chiaramente Kechiche continua a percorrere la strada di un cinema antirazzista e fortemente impegnato con le minoranze, e chiaramente vuole con questo film di 2 ore e 40 mostrare che quella selvaggia voglia di umiliare il diverso non è poi così diversa da quella che si vive ancora adesso in Francia. Si è semplicemente persa la voglia di essere così sfacciati, così grevi, ma c'è lo stesso spirito. E infatti questa psicologia di massa, questa rabbia popolare verso questa povera donna, la vogliono, lui la esprime attraverso questa storia incredibile. Un film molto molto particolare, troppo lungo sicuramente anche troppo arrabbiato in qualche modo, però sicuramente un film da vedere, perché sono quelle storie che la storia ha dimenticato e che il cinema ripesca, quindi in qualche modo c'è un obbligo morale a vederlo, anche se sicuramente non è il miglior film di Kechiche. Sicuramente è un tema che, come dicevi tu, forse esiste, anzi sicuramente esiste ancora oggi, e non solo in Francia. Viene trattato dai media con una politically correctness diversa, ma dentro l'animo ancestrale dell'uomo le cose non mi sembra che siano cambiate molto. È un film che comunque, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, una certa prolissità, diciamo, è parte del modo di fare cinema di Abdelatif Kechiche. Beh, insomma, dicevo, un film che però si iscrive in un filone che il cinema internazionale ha frequentato molto. Pensiamo a film come Elephant Man, tanto per dire, dove il diverso, viene in mente anche Edward Mani di Forbice, dove il diverso è proprio tanto diverso ed è difficile da accettare, e mette in gioco chiaramente anche le nostre emozioni più profonde. Boris, rimani con noi ancora qualche secondo, fra poco parliamo insieme di The Hunter, poi ti liberiamo, fra poco. La Rosa Purpurea. Ancora insieme, Rosa Purpurea, ancora attualità cinematografica, ancora novità nelle sale italiane. Parliamo di un film che arriva dall'Iran, è un film che, diciamo così, ci riporta dentro quello che è ridiventato un inferno. Il cinema iraniano negli anni tardi 80, 90, con l'avvento su tutti di un nome, ovviamente quello di Abbas Kiarostami, ma insomma di tanti registi, non ultimo di Jafar Panahi, che tante traversie giudiziarie incredibili sta passando nel suo paese. Beh, dicevo, insomma, un cinema iraniano che ci aveva abituato soprattutto a una certa poetica, a dire le cose in un certo modo, no? Qui questo modo si abbandona. The Hunter di Rafi Pitz è un film praticamente di genere, un revenge movie, un film di vendetta, e noi, per cominciare a raccontarvelo, vogliamo farvi ascoltare questa clip. Ali, mi porti una volta con te a caccia? No. A caccia? Sì, perché? Caccia di male. Lo sparo è un po' il simbolo di questo film, anzi lo diventa, perché è la storia di Ali, un uomo appena uscito di prigione, niente di gravissimo, diciamo così, rissa aggravata, vabbè, però comunque nell'austero e severo Iran si finisce in carcere anche per molto meno. E fuori dal carcere Ali pensa semplicemente a recuperare il tempo perduto, alla moglie, alla figlia che ama in maniera totale. Cerca anche un reinserimento nella società, però è molto difficile reinserirsi, perché sei sempre quello che è uscito dal carcere. Allora il suo lavoro di guardiano notturno traballa alquanto, però appunto si tiene tutto sulle spalle per amore di questa moglie e di questa figlia, che però un giorno improvvisamente scompaiono. Ha visto mia moglie e mia figlia? No. Questa mattina c'è stato uno scontro violento tra alcuni manifestanti e la polizia, che ha aperto il fuoco. Purtroppo sua moglie è stata colpita ed è morta. Potrebbe essere sua figlia, vediamo se la riconosce. Chi l'ha uccisa? Non possiamo saperlo senza autopsia. Dobbiamo esaminare il proiettile per capire da quale arma è stato sparato e a chi appartiene. E allora, qui il film cambia. Diventa un film di vendetta, ma diventa anche un film politico in un certo senso, perché Ali, il protagonista, ha intuito che alle spalle c'è la polizia, o meglio il poliziotto che ha sparato durante una manifestazione, uccidendo i suoi due amori femminili, appunto, della sua vita. Decide nel suo silenzio, un uomo molto riservato, molto silenzioso, di cominciare una battaglia personale, una vendetta personale che ha per obiettivo proprio tutto il corpo della polizia, nei singoli e nel suo insieme. Il film cambia anche scenario, si inoltra nei boschi di un Iran che abbandona la realtà metropolitana di Teheran per vivere il suo epilogo drammatico. Boris, ancora con noi, Boris Sollazzo. Un cinema iraniano un po' diverso, devo dire, appunto, come dicevo in premessa, che certo dall'Iran abbiamo visto arrivare tanto bel cinema, quasi sempre con una matrice fortemente spostata sulla poetica. Qui invece c'è l'azione, o anche in certi momenti, se vuoi, l'assenza di azione, ma una tensione sempre presente. No, un film sorprendentissimo, non si dovrebbe fare quando fai il nostro lavoro, però di solito ti aspetti da una cinematografia un certo stile, specialmente cinematografie molto riconoscibili come può essere quella iraniana, quella cinese, quella turca. E qui invece arriva questo Rafi Pitz che veramente fa un film di genere, fa un film allo stesso tempo estremamente politico, perché se vogliamo parla di cose che noi in Italia facciamo fatica a raccontare nei film, e lo fa portando alle estreme conseguenze un uomo normale, e questo ricorda molto cinema americano, i revenge movie americani, in cui un giustiziere si fa giustizia da solo perché qualcosa è successo, dai fumetti fino al cinema, da Punisher fino all'ultimo Gerard Butler, insomma ne abbiamo visti tantissimi. Il film secondo me è molto interessante, arriva purtroppo in Italia con 2 anni di ritardo, succede spesso che i film estivi siano film che arrivano molto in ritardo, però secondo me va guardato con cura, perché ci mostra un cinema iraniano molto vitale, un cinema iraniano che secondo me negli ultimi 2-3 anni ha cominciato a guardare oltre gli schemi e gli stili con cui era diventato famoso in Occidente e in generale nei festival, e mi sembra veramente uno dei cinema più vitali in questo momento. Quindi io The Hunter, devo dire, lo consiglio proprio come dici tu, perché ha davvero anche la forza dei film d'azione, per cui ci sono belle scene d'azione e ci sono anche belle scene di tensione, quindi è assolutamente un film da vedere. Grazie Boris, allora appuntamento la prossima settimana. Alla prossima settimana, un abbraccio. E Allora, dall'attualità cinematografica che abbandoniamo, abbiamo visto quali sono i quattro film più importanti, secondo il nostro giudizio, di questo weekend. Noi ci spostiamo sulla seconda traccia del film misterioso di oggi. Ma ti rendi conto come l'ha chiamata? È proprio stronzo. È stato affettuoso. Dirle mia principessia. Ma smettila, questa è una cosa che dice a tutte. Non è vero. Lo dice solo a Beth. Io scommetto che chiamerà anche te principessina d'ora in avanti. Avevamo una mamma e una figlia nella prima clip, adesso due amiche e un pretendente del quale stanno parlando. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, più tardi ci sarà l'ultima traccia. Meno male, ho convinto anche questo. Dal Brenner a qua è il sesto controllore che convinco, non ce la faccio più. Ma devi andare molto lontano? A Reggio Calabria. Se mi regge il culo. La lascio riposare. E quella che abbiamo appena sentito è una clip da un film che ha un titolo, direi, come dire, che è diventato un paradigma. Viva la foca. Questo è il titolo di questo film, che ci aiuta a entrare dentro un tema molto spiritoso ma anche molto interessante, che è quello la cui scaturigine sta in una mostra, di manifesti locandine originali cinematografiche. Da una immensa collezione Piero Lessio ed Enrico Ercole hanno tirato fuori 100 manifesti, tutti inerenti un genere, una tipologia del cinema italiano degli anni 70-80, ovvero la commedia sexy di serie B. Quanti titoli, mi vengono in mente quel gran pezzo dell'Ubalda, appunto, Viva la foca, ma ce ne potrebbero essere mille. Pensate ai Pierini, pensate alle vigilesse, alle soldatesse, alle liceali nelle classi dei ripetenti. C'era davvero di tutto, ed era tutto questo, era un, come dire, un genere che al cinema aveva una fitta schiera di aficionados, quando ancora la TV non era invasiva come lo è diventata negli anni, e quando il cinema si vedeva solo al cinema praticamente. E allora questa mostra di 100 locandine di grandissima bellezza e di assoluta originalità è dal 22 giugno al 1 luglio all'atelier Gluckarte in via Gluck a Milano, e quindi potete andare a visitare, tra l'altro ingresso libero dalle 10 alle 18, questi gli orari, poi potete informarvi sul sito appunto dell'atelier Gluckarte di Milano. Noi siamo in collegamento con scusate il gioco di parole, Filippo Mazzarella, che il 22 terrà battesimo questa mostra alle 18.30 con Enrico Beruschi, tra l'altro, che sarà presente, protagonista non principale ma insomma anche di alcune di queste commedie. Filippo Mazzarella, che saluto in collegamento con noi. Ciao Filippo. Ciao Franco. Allora, dicevamo, grandi incassi, una fetta di quell'industria del cinema italiano che praticamente non c'è più, assicurata proprio da questi B-movie erotico sexy, e una permanenza a tanti anni di distanza che il DVD ha rivalutato. Beh sì, assolutamente, ormai sono passati quasi 30 anni dalla fine del fenomeno che è cominciato, diciamo, all'inizio degli anni 70. Fenomeno che è cominciato dopo che si erano esaurite le parodie dei generi. All'inizio si era cominciato a fare appunto i decamerotici, piuttosto che il nostro genere italiano, il western italiano era ancora molto, molto popolare, e a un certo punto si è cominciato a fare anche delle commedie che in qualche misura fossero commedie, come dire, imitative della grande commedia all'italiana che invece ancora spopolava sugli schermi. Un po' la stura è stata data in quegli anni, diciamo, per il tipo di cose di cui si occupa la mostra, cioè proprio la commedia erotica, quella dei Pierini, degli Alvaro Vitali, dei Renzo Montagnani, dei Gianfranco D'Angelo, intorno alla metà degli anni 70. E la spallata credo l'abbia data forse un film come L'anatra all'arancia di Luciano Salce, dove già si sforava un po', no, nell'erotico, nella commedia un pochino più scollacciata e un po' meno. Poi ovviamente c'è stato un fiorire di pellicole, anche perché effettivamente queste pellicole incassavano tantissimo. Ora, nella fase calante del fenomeno, però, Pierino di Alvaro Vitali, il primo, incassò quasi 3 o 4 miliardi, assolutamente la chetichella. Era l'anno in cui, l'anno prima, Vieni avanti cretino con Lino Banfi aveva incassato quasi 1 miliardo al mese, zitto zitto. Mi ricordo proprio un titolo di un giornale che diceva: zitto zitto, Banfi incassa 1 miliardo al mese. e il DVD e oggi le videocassette prima hanno contribuito a far sì che questo, diciamo, fenomeno si perpetuasse nel tempo. Poi è chiaro, anche la Mostra di Venezia ha celebrato l'industria del B-movie americano. Bisogna stare attenti a, appunto, a rivalutare il fenomeno nella sua complessità e in qualche misura forse meno alcuni film che brutti erano e brutti restano. Grazie allora a Filippo Mazzarella. Ricordiamo Viva la Foca, mostra di 100 locandine originali cinematografiche della sexy commedia B, di serie B italiana, all'Atelier Gluckart dal 22 giugno al 1 luglio. Ciao Filippo. Ciao. Ebbene, a questo punto sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo insieme qui alla Rosa Purpurea, perché c'è da parlare di un video e di tutto il cinema da vedere a casa. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, l'ultima parte del programma, come sempre dedicata ai film da vedere a casa attraverso il videoregistratore o il oggetto ormai desueto, il videoregistratore, anche se molto molto affascinante. Io ho riscoperto il VHS, un po' di tempo che compro VHS di vecchi film e me li vedo con un grande gusto. Sarà il gusto del vintage quello che alimenta anche chi, anche lì ci sono cascato dentro con mani e piedi, e si compra tutti i vinili del mondo perché ritiene che sia più affascinante che sentire un CD. Ma insomma, detto questo, dicevamo, da vedere in on video, per usare un termine più omnicomprensivo e moderno, e in digitale terrestre, in televisione, in chiaro e gratuitamente. Allora, come sempre, questa parte la assolve egregiamente la redazione del settimanale Film TV, con la quale ci colleghiamo. Sentiamo cosa ha scelto per noi oggi Nicola Cuperi. Ciao Nicola. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori di Radio 24 e bentornati alle segnalazioni di Film TV. Cominciamo con Balla coi lupi, in onda mercoledì alle 21.10 sulla 7. Si tratta del sorprendente esordio alla regia di Kevin Costner, che segna il ritorno dopo parecchi anni del western d'autore. Era infatti dai tempi di Piccolo Grande Uomo che sul popolo degli indiani d'America, i Sioux in questo particolare caso, non si posava uno sguardo così rispettoso e ammirato. Il film ha portato a casa, in maniera abbastanza sorprendente, 7 Oscar, tra cui quello per il miglior film. Bando agli equivoci, non si tratta certamente di una pellicola rivoluzionaria per il genere, ma è comunque all'altezza di altri grandi classici. E questa era quindi la prima segnalazione, capolavoro che io adoro, ho adorato sin dalla prima volta che l'ho visto, questo monumentale film che, appunto, come diceva Nicola, ha un po' riesplorato il western d'autore. Balla coi lupi, esordio alla regia di un attore che all'epoca era molto in voga e che come regista poi però non ha poi ripetuto exploit almeno di questo livello, anche se ci sono stati film molto interessanti di Kevin Costner, ma insomma l'abbiamo forse un po' perso per strada, ma forse è proprio quella Hollywood che un po' classicheggiante, che tutto sommato fatica oggi nell'adrenalina dei popcorn movie e dintorni. Comunque, Balla coi lupi, se non l'avete visto, vedetelo, guardatelo, riguardatelo sulla 7, mercoledì alle 21.10. L'altra segnalazione? La seconda segnalazione di questa settimana è per Clerks, in onda su Rai Movie alle 22.55 di lunedì. Si tratta di un film culto diretto dall'esordiente Kevin Smith, il manifesto di una generazione di magnifici perdenti e nerd. È fatto di una comicità molto verbosa e anche volgare, sempre irriverente e molto spregiudicata, che funziona, diciamo, da collante per una serie di scenette che vanno dal surreale al grottesco. Fra i dialoghi più memorabili ricordiamo sicuramente quello fra i due protagonisti, Randall e Dante, che discutono sull'orientamento politico dei subappaltatori della seconda morte nera in Guerre Stellari. È stato girato con due soldi, in un bianco e nero molto povero, ma con grandissima passione. E allora, questo è Clerks. Tra l'altro il suo regista Kevin Smith ha detto proprio durante il Festival di Taormina, che si conclude questo fine settimana, che probabilmente non farà più film e cercherà un altro modo di esprimere il suo talento visivo e i suoi sentimenti. Questo forse è un'arrabbiatura che nasce anche appunto dal fatto che un certo tipo di cinema fatica sempre di più a trovare determinati suoi circuiti, ma questo dipende molto anche da noi spettatori e da quello che scegliamo quando andiamo al cinema. Clerks lo potete vedere lunedì su Rai Movie alle 22.55. Grazie Nicola, risentirci. Grazie Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24, alla settimana prossima con le segnalazioni di Film TV. Oh bene, siamo arrivati allora alla parte DVD, ma prima ovviamente vi facciamo ascoltare l'ultima traccia del Blu-ray Game di oggi, sentiamo. David, posso farti una domanda? Dimmi la verità, te la scoperesti? No, nessuno lo farebbe. Nina, tu balli come una frigida. E beh, adesso qualche segnale in più e qualche traccia in più c'è effettivamente per indovinare di che film si tratta. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, la vostra risposta con il vostro indirizzo per cercare di vincere appunto il Blu-ray di questo film. Così come hanno fatto un paio di nostri ascoltatori la scorsa settimana giocando con questa traccia. Mi fa piacere vederci. Anche a me. Come ti senti? E la mano? Quasi guarita. Lo vedo bene. Perché non vieni in palestra? Ti alleni, se ti va. E allora si trattava di The Fighter, uno dei più bei film di questa stagione, stagione che ormai volge al termine se la paragoniamo alla stagione calcistica, diciamo che si apre col Festival di Venezia e va avanti fino a estate. The Fighter di David O. Russell con due straordinari attori, Mark Wahlberg e Christian Bale, nei panni di due fratelli pugili che cercano redenzione, che cercano un ritorno alla vita, che cercano un successo che non sia inquinato dai precedenti dell'altro fratello, appunto che viene messo a terra più che dai KO del ring, da quelli del crack. E insomma un film che, nelle quale riecheggia molto il wrestler di Mickey Rourke, ma che lo racconta con una prova soprattutto d'attore più sincopata, forse meno malinconica, sicuramente molto molto riuscita. Ma per farci spiegare tutto dell'edizione on video di The Fighter, noi abbiamo in linea già il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. The Fighter di Eagle Pictures è un'edizione on video molto interessante, DVD è di ottima qualità, c'è questa doppia traccia Dolby Digital multicanale italiano-inglese, sono entrambe notevoli. Tra gli extra segnalo 36 minuti di approfondimenti sulla lavorazione in compagnia del cast e della troupe, ma soprattutto dei veri personaggi che hanno ispirato l'opera, oltre a 20 minuti di scene tagliate. Tra l'altro ricordo che è disponibile di The Fighter anche il Blu-ray. E allora vi ricordo i vincitori, perché non li abbiamo ancora detti. Sono Daniela Bertazzoni di Padova e Mirko Eberini di Sesto San Giovanni. Saranno loro a ricevere il DVD appunto di The Fighter. Proseguiamo con un film sempre di questa ultima stagione cinematografica. Si intitolava, ed era tutto un programma, Burlesque. Si è fermata la musica, non sapevo che altro fare. Adesso ho dovuto cantare, scusami. Non mi avevi detto che sapevi cantare così. Ho provato a dirtelo, è solo... Ok. Faremo in questo modo. Voi conoscete le canzoni, giusto? Oh, sì, certo. Va bene. Allora, domani proviamo tutto il giorno. E domani sera tu canterai e faremo lo show dal vivo. Dal vivo? Sì, ci sono domande? No. Ok, bene. Ok, d'accordo. Tu vai con i ragazzi e trovate la tonalità giusta per ogni pezzo. Io invece andrò nel mio ufficio e comincerò a preparare un nuovo show. In cerca di fama e fortuna da un piccolo paese di provincia, Ali muove in quel di Los Angeles e inizia come cameriera presso il Burlesque Lounge, dove si balla l'omonimo spettacolo parodistico, gestito con fatica tra l'altro da Tess, che è oberata di debiti. Ali coglie ben presto l'occasione per mostrare a Tess le sue doti, entra nella compagnia di ballo, diventa la prima attrazione e addirittura aiuta Tess a salvare il locale. Film musicale di genere, zuppo di cliché, però mai volgare, e la danza e la musica hanno sicuramente fascino. Cher, tra l'altro, è una marziana senza età. Da Sony Pictures Home Entertainment, il DVD, ma soprattutto il Blu-ray, di eccellente resa, con un po' di grana, ma mai veramente in evidenza. Sono notevoli le tracce di TS ad alta risoluzione italiano-inglese, tantissimi gli extra, tra cui segnalo il commento del regista, un inizio alternativo e l'esibizione integrale di Burlesque. Interessante l'inizio alternativo, di solito si fanno le fini alternative. Capolavori e dintorni, il Blu-ray permette di riscoprire nello splendore, quasi meglio tante volte in termini tecnici di quando l'abbiamo visto la prima volta al cinema, i grandi capolavori del film, del cinema. Stiamo parlando oggi di uno di quelli che rientrano sempre in queste liste, ovvero Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Non farlo spiritoso sui celeri omniscienti. Se non ti hanno arrestato di recente, non vuol dire, lo sai benissimo, che tu non ne hai combinata qualcuna. Qualcosa di brutto è successo la notte scorsa, sì. Qualcosa di molto brutto, sì. Alcuni amici di Billy Boy sono rientrati in ambulanza, sì. È stato fatto il tuo nome, mi è stato riferito dalle solite fonti e sono stati fatti i nomi di altri tuoi amici. In una Londra futuristica, Alex è un giovane schedato dalla polizia alla perenne ricerca di emozioni forti che di notte con alcuni folli compie ogni genere di azione criminale. tradito dai compagni con un omicidio sulle spalle, finisce in carcere, pur di riuscire a farla franca si sottopone a un trattamento sperimentale che dovrebbe condizionarlo alla non violenza. Tratto dall'omonimo romanzo di Anthony Burgess, il controverso e violento capolavoro del maestro Kubrick arriva finalmente in alta definizione con una qualità video di gran lunga superiore alle precedenti edizioni DVD. Permane la traccia Dolby Digital in italiano, sicuramente superiore a quella di DTS ad alta risoluzione in inglese. L'edizione di Warner Home Video è addirittura una due dischi, sono tantissimi gli extra, su tutti sicuramente il commento di Malcolm McDowell e dello storico del cinema Nick Redman su tutto il film, tanti approfondimenti con cineasti, psicologi, giornalisti, un incontro con Malcolm McDowell per il 40° del film e addirittura un documentario di 2 ore e 20 su Stanley Kubrick intitolato A Life in Pictures. Beh, diciamo imperdibile davvero questo Arancia Meccanica in versione Blu-ray. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E abbiamo finito la nostra corsa qui con l'ora di cinema su Radio 24. Appuntamento la prossima settimana, come sempre il sabato alle 18, la domenica alle 15. Per chi ci ascolta in replica, un saluto da Franco D'Assisi.